La mattinata di oggi è stata estremamente emozionante, ecco, la posso riassumere così, un'emozione enorme arrivare in quella sala stracolma dei lavoratori della Lamborghini e a portare i nostri temi, che sono anche i loro temi e i temi di tutti quelli che hanno a cuore il rispetto dei diritti. Devo dire, mi emoziono ogni volta che mi trovo davanti a folle che hanno capito la battaglia che stiamo portando avanti, e ogni volta col pensiero non posso non tornare indietro a 10 anni fa, quando siamo partiti ed eravamo soli e mi trovavo spesso a parlare a folle tra virgolette, a platee di 4-5 massimo 10 persone, però sapevo che quella era la strada giusta ed effettivamente lo è stata, perché in qualche maniera abbiamo aperto una strada, abbiamo forse risvegliato le coscienze, forse abbiamo fatto capire che non bisogna cedere al pregiudizio, non bisogna voltarsi dall'altra parte quando si parla di diritti, anche se quei diritti non riguardano direttamente noi stessi, ma vanno comunque rispettati, perché se passa il concetto che i diritti di qualcun altro sono violabili, sacrificabili, domani i diritti sacrificati saranno i nostri. Ecco, infatti ti chiederei anche, secondo te, un'analisi, diciamo, del periodo politico, non tanto in termini di elezioni, anche perché siamo anche in periodo di par condicio, ma più in termini proprio di diritti, nel senso che se questo è stato un anno positivo, diciamo, per la battaglia per la verità, per Stefano, un anno in cui si è detto più volte, diciamo, è crollato quel muro di gomma, però forse non è stato un anno, diciamo, altrettanto positivo per i diritti in generale. Ma te lo riassumo in una parola: drammatico. È un momento, quello che stiamo attraversando, a mio avviso, estremamente drammatico. Sentiamo parlare di tutto fuorché di diritti, quando invece è da lì che dovrebbe partire tutto, e in qualche maniera da più fronti si sta facendo passare il concetto che il nostro benessere è legato al sacrificio, alla privazione dei diritti di qualcun altro. Non è così, ricordiamolo, i diritti umani non sono mai e per nessun motivo sacrificabili, anche e soprattutto quando si tratta dei diritti degli ultimi. E a questo punto, a proposito di cose e persone drammatiche, ti chiederei anche se posso immaginare la risposta, se nel frattempo quelle scuse, diciamo, dovute dall'attuale ministro degli interni Salvini ti sono mai arrivate tra i suoi molteplici tweet. No, non sono arrivate le scuse a parole, né tantomeno con i fatti. E invece, diciamo, un'altra... Ma non me l'aspetto nemmeno. Però, diciamo, sarebbero giuste in questo caso, non solo da parte sua, ma sicuramente lo sarebbe. Ma sarebbero giuste, però evidentemente non interessa, evidentemente si prova più interesse ad andare in giro a farsi dei selfie piuttosto che parlare di cose concrete. Qui stiamo andando alla deriva, ne abbiamo dimostrazioni su tutti i fronti e sembra non interessare niente a nessuno qua. E diciamo, invece, tornando a dei fatti concreti, questa mattina il procuratore generale Mario Remus, nell'ambito del processo che vede intentati 5 medici per omicidio colposo a carico proprio, diciamo, nei confronti proprio di tuo fratello Stefano, ha dichiarato: questo processo dovrà concludersi con una declaratoria di prescrizione del reato, ma è una sconfitta della giustizia. Insomma, sono un po' le parole con cui potrebbe effettivamente finire questo processo, un processo lungo in cui il verdetto è anche cambiato più volte. Ti chiederei di commentarle. Ma guarda, sì, le parole del dottor Remus sono estremamente significative. Sì, questo è il fallimento della giustizia. Questo riassume un po' la nostra storia di questi ultimi 10 anni. Quel processo che andrà in prescrizione, per cui reati andranno in prescrizione, è, ricordiamolo, il processo sbagliato. Oggi lo sappiamo, lo possiamo dire, perché sono emersi dei particolari agghiaccianti in questo nuovo processo, quello giusto, ossia che quello vecchio era già stato deciso a tavolino da coloro che oggi sono indagati. Ci sarà l'udienza preliminare nei loro confronti il 21 maggio e sono i superiori dei carabinieri coinvolti nell'attuale processo accusati dei depistaggi. Ecco, loro decisero a tavolino quali dovevano essere le sorti del processo per la morte di mio fratello, e tutto sulla pelle della nostra famiglia, che, ricordiamolo, è una famiglia per bene, che per anni si è battuta contro tutto e tutti e che nonostante tutto non ha mai smesso di avere fiducia nelle istituzioni e nella giustizia. Se in quelle parole è riassunto il fallimento della giustizia, nelle parole di Remus, possiamo dire che oggi, in questo nuovo processo, stiamo avendo dimostrazione che però di magistrati bravi, onesti, ce ne sono tanti, e quando un magistrato è capace di fare il suo lavoro ed ha voglia di farlo, i risultati si vedono, come lo stiamo vedendo in questo processo nel quale sono sulla barra degli imputati e 5 carabinieri, 3 dei quali per omicidio preteso intenzionale. Ci è voluto tanto, ci è voluta tanta fatica, la nostra famiglia ha pagato un prezzo carissimo, non mi riferisco solamente all'aspetto economico, ma anche e soprattutto all'aspetto emotivo e oggi devo dire anche di salute, ma possiamo dire che noi non abbiamo perso, non abbiamo perso noi, non hanno perso tutti i cittadini per bene che hanno diritto di continuare a credere nelle istituzioni, nella giustizia. Ecco, ti chiederei un'ultima cosa, un commento proprio, diciamo, in vista della prossima udienza, ma anche in quella passata, diciamo, quando si è sentita la testimonianza di Francesco Tedesco, una delle cose che è emersa più ampiamente, diciamo, è stata quella di un clima di paura molto ampio, di un clima di controllo anche all'interno delle forze dell'ordine, insomma, è emerso proprio l'immagine, diciamo, di un sistema in qualche modo fallato in più punti, non solo dell'errore appunto di poche persone. Eh sì, ogni volta che in questo processo, in queste udienze, ho visto sfilare come testimoni vari carabinieri, ho notato scene di paura, ecco, letteralmente di paura, carabinieri che balbettavano, che erano pieni di non ricordo, ecco, dà bene l'idea del clima che c'era. Possiamo dire che c'era, perché se qualcos'altro è cambiato è che, a dispetto di coloro che continuano a sostenere che c'è una guerra in corso tra la famiglia Cucchi e l'arma dei carabinieri, possiamo dire che non è così. L'arma dei carabinieri, lo dimostrano le parole del generale Mistri, che è costituita da tante donne e uomini onesti che svolgono il loro lavoro quotidianamente con enorme fatica, spesso, e nel nostro interesse, è al fianco della famiglia Cucchi e lo sarà anche in questo nuovo processo.